luogo, una storia di Daniele Biacchessi. Settembre 1943 a Cassibile in Sicilia viene firmato il testo del breve armistizio tra il generale Giuseppe Castellano per conto del maresciallo Pietro Badoglio e dal generale Walter Wedel Smith su ordine di Dwight Eisenhower, il comandante supremo delle forze alleate nel Mediterraneo. 8 settembre 1943 alle 19.45, dopo 5 giorni di trattative, viene firmato l'armistizio. Una spaventosa forza navale alleata punta verso il Golfo di Salerno. Sono le ore in cui la città viene colpita dall'ennesimo bombardamento. Da molte settimane subisce continue incursioni aeree ed è ormai ridotta a un cumulo di rovine. La gente bivacca nelle gallerie e nelle cantine, affamata e ormai senza speranza. Alle 19.45 anche la popolazione di Salerno ascolta la voce del maresciallo Badoglio. La guerra è dunque finita, pensano i salernitani che escono dai rifugi. L'illusione dura pochi minuti. La comparsa delle navi alleate all'orizzonte spinge i salernitani a rinchiudersi nei bunker. La missione di Salerno segue di pochi mesi quella in Sicilia. 463 unità navali salpano dai porti di Algeria e Sicilia e si caricano a bordo 100.000 soldati inglesi e 70.000 americani al comando del generale americano Mack Clark. I soldati vivono ore di tensione, quelle che precedono l'inizio delle operazioni militari. Tutti a bordo, compresi gli ufficiali, sono all'oscuro degli ultimi eventi. Ignorano la firma dell'armistizio, conoscono solo l'avvio delle trattative. Sono convinti che lo sbarco possa incontrare la tenace resistenza italiana e tedesca. Tutto si blocca da una comunicazione radiofonica. Alle 18.30 dell'8 settembre del 43, mentre l'operazione Avalanche è in pieno svolgimento con i convogli alleati in vista di Salerno, da Algeri Eisenhower comunica la notizia dell'armistizio intervenuto tra gli alleati e gli italiani. Italian government has surrendered its armed forces unconditionally. As Allied Commander-in-Chief, I have granted a military armistice. Qui è il generale Eisenhower. Il governo italiano si è arreso incondizionatamente a queste forze armate. Le ostilità tra le forze armate delle Nazioni Unite e quelle dell'Italia cessano all'istante. Tutti gli italiani che ci aiuteranno a cacciare il tedesco aggressore dal suolo italiano avranno l'assistenza e l'appoggio delle nazioni alleate. Un analogo annuncio viene fatto alla radio italiana alle 19.45 dal capo del governo Pietro Badoglio. Il messaggio al popolo italiano così si conclude: esse, cioè le forze armate italiane, reagiranno ad eventuali attacchi di qualsiasi altra provenienza. Ente italiano audizioni radiofoniche EIAR. Proclama del capo del governo. Parla sua eccellenza il maresciallo Pietro Badoglio. Il governo italiano, riconosciuta la impossibilità di continuare la impari lotta contro la soverchiante potenza avversaria, nell'intento di risparmiare ulteriori e più gravi sciagure alla nazione, ha chiesto un armistizio al generale Eisenhower, comandante in capo delle forze alleate anglo-americane. La richiesta è stata accolta. Conseguentemente, ogni atto di ostilità contro le forze aeree deve cessare da parte delle forze italiane in ogni luogo. Esse però reagiranno ad eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza. La notizia, del tutto inattesa, provoca grandi manifestazioni di gioia in tutto il paese. Anche i soldati esultanti ballano sui ponti. La guerra con l'Italia è finita, nessuno pensa più ai pericoli. tutti sono certi che a Salerno ci sia una folla in festa. Invece no. Alle 3:30 di mattina del 9 settembre 1943, il generale Mark Clark avvia l'operazione Avalanche. La prima divisione aerotrasportata si impadronisce di Taranto senza incontrare resistenza. Intanto, 55.000 uomini delle truppe anglo-americane sbarcano nel Golfo di Salerno, coperti da una forza navale che dispone 4 corazzate, 7 portaerei, 11 incrociatori e alcune decine di caccia, oltre a unità di scorta e minori. I soldati prendono posizione con relativa facilità e senza contrasti, ma improvvisamente, con loro grande sorpresa, incontrano la reazione tedesca. Sentiamo la ricostruzione tratta dallo spettacolo di Angelo Pesce, 1943, Operation Avalanche. Gli incessanti cannoneggiamenti da terra rendono necessario stendere cortine fumogene per occultare alla vista le navi in rada e la risposta colpo su colpo da parte degli incrociatori alleati. Assicurato il controllo di una stretta fascia costiera relativamente protetta dai tiri diretti del nemico, si avvicinavano alla spiaggia gli LST, navi da sbarco per mezzi corazzati che rigurgitano a terra dai portelloni prodieri, impressionanti quantità di uomini, armamenti e mezzi di ogni tipo. Imperversano i duelli aerei e l'aviazione tedesca, pur tra qualche perdita, colpisce con micidiale precisione diverse navi della flotta d'assalto. La 16ª divisione corazzata tedesca, schierata a terra, riesce comunque a osteggiare al meglio delle sue possibilità le operazioni di sbarco delle sue postazioni costiere. Nelle 48 ore seguite allo sbarco, gli alleati travolgono le difese germaniche e si spingono verso l'interno. La resistenza tedesca è debole, il generale Clark è soddisfatto. Il suo ottimismo fosse eccessivo riguardo allo sbarco, ora si rafforza perché gli avvenimenti sembrano giustificarlo. Le navi scaricano carri armati e automezzi, i rinforzi affluiscono sulla spiaggia. Intanto l'artiglieria tedesca tace e l'aviazione sembra scomparsa. Gli alleati avanzano, occupano l'aeroporto di Montecorvino, riattivano la pista. La battaglia pare ormai vinta. I tedeschi si ritirano o si arrendono. A 3 giorni dallo sbarco di Salerno, gli alleati controllano una testa di ponte lunga 100 km e profonda 10. Ma la mattina del 12 settembre del 43 tutto cambia. I tedeschi vanno al contrattacco. Le truppe naziste attaccano di sorpresa il settore nord e spazzano via i presidi dei comando britannici. Poche ore dopo, la controffensiva si estende a tutto l'arco del fronte. Le truppe tedesche giunte di rinforzo sono le divisioni che il comandante Albert Kesselring spedisce a Salerno, provenienti dalla battaglia delle truppe italiane a Porta San Paolo, a Roma. Dopo aver sottomesso la capitale ai suoi ordini, si lancia all'attacco degli alleati. Sotto l'urto delle forze tedesche, l'intero schieramento anglo-americano vacilla. La ritirata degli alleati è generale. Molti reparti si sbandano, numerosi prigionieri vengono catturati. I nazisti riconquistano posizioni strategiche importanti come Battipaglia e Altavilla. Durante questa controffensiva i tedeschi si sentono ormai vicino alla vittoria. La situazione è disperata. Il generale Clark chiede l'invio di rinforzi. Arriva la divisione paracadutisti Airborne. Devono essere lanciati su Roma. Restano inoperosi all'aeroporto di Licata. alla fine sono inviati nelle retrovie per colpire e disorganizzare i movimenti del nemico. Neppure l'intervento dei paracadutisti modifica la situazione. I tedeschi continuano l'avanzata e le loro avanguardie si asserragliano sulle colline vicine al mare. La svolta la decide il maresciallo Alexander, comandante in capo delle forze alleate del Mediterraneo. Ordina l'intervento della squadra navale. Per la prima volta la Marina viene impegnata in una battaglia campale. Il 14 settembre 1943 una potente squadra da battaglia lascia Malta diretta verso Salerno. Ne fanno parte anche le corazzate Warspite, Valiant, Nelson e Rodnio, armate con cannoni da 381 mm. Stormi di bombardieri pesanti vengono lanciati sulla costa salernitana e colpiscono le retrovie tedesche. Inizia la controoffensiva alleata. I danni sono enormi, migliaia di morti anche tra la popolazione civile. Il bombardamento navale è decisivo. Le navi si spingono quasi al limite della costa e sostituiscono le artiglierie. Il loro tiro è preciso. Grazie a un nuovo sistema di segnalazione, le truppe alleate chiedono l'appoggio delle artiglierie navali come fossero batterie terrestri. Le postazioni tedesche vengono centrate una ad una. Il 16 settembre 1943 Albert Kesselring ordina alle sue truppe il ritiro verso il nord. Per gli anglo-americani la via di Napoli è aperta. Se a Salerno, commenterà Alexander, operazione conclusa, la marina e l'esercito non avessero potuto disporre della superiorità, lo sbarco sarebbe fallito. Avalanche è un successo dal punto di vista militare, anche se politicamente e strategicamente non raggiunge gli obiettivi prefissati, cioè l'immediata liberazione di Napoli, la rapida avanzata su Roma. Per liberare Roma occorrerà aspettare circa 9 mesi e per percorrere 54 chilometri che dividono Salerno da Napoli gli alleati impiegano 22 giorni. Alcuni storici l'hanno chiamata la sindrome di Salerno. E così, anni dopo, il Dipartimento della Difesa statunitense realizza un documentario, The Battle of Salerno, in cui un veterano spiega ad un bambino che cosa avviene in quei giorni. This is The Big Picture, an official report of the United States Army, produced for the armed forces and the American people. That was the battle of the Argonne Forest, and only just beginning. It's been that way for 3 whole days and 3 nights. Cut off from the battalion, no food, no water, no ammo, no nothing. Then that last barrage lifted, and I started crawling around, looking for the rest of the patrol. You know what? There wasn't any. What was left of them, if there'd been any, had all been pulled back. I was all alone. I look around, and that place was just a-popping with Germans. All of a sudden, it seemed like the whole of the Kaiser's army was out just to get me, and all of them yelling for me to surrender. Well, I started looking for a clip. Oh, gee, Rushi, there wasn't any. I got so sore, I forgot to be scared. La scena e la nostra visuale si sposta qualche mese dopo, più a nord. Gennaio 1944. Lo sbarco alleato di Anzio rappresenta la soluzione strategica per sbloccare l'impasse di Cassino e raggiungere al più presto Roma. Il piano previsto è suddiviso in varie azioni prestabilite. La manovra strategica è condotta dal gruppo di armate. l'ottava armata britannica attacca e avanza sul versante adriatico. La quinta armata cerca di rompere il fronte di Cassino per fissare le forze tedesche in linea e impegnare le riserve. In contemporanea, al sesto corpo d'armata statunitense guidato dal generale John Lucas spetta il compito di sbarcare ad Anzio. Una volta preso terra, sfruttando la sorpresa, avanza rapidamente verso l'interno e taglia le linee di alimentazione tedesche tra Roma e Cassino, costringendo alla resa o alla ritirata la decima armata tedesca. In quel modo gli alleati si sarebbero trovati a sud di Roma e soprattutto sganciati dalle posizioni di Cassino. Così la teoria militare. L'operazione denominata Scingola è invece un totale fallimento. Il 22 gennaio del 44 inizia l'operazione ad Anzio e Nettuno. Nelle prime 12 ore sbarcano 50.000 uomini con tutto il loro equipaggiamento. I tedeschi sono sorpresi, ma la decisione del generale Lucas di attendere rinforzi e trincerarsi sulle spiagge permette ai nazisti di bloccare gli alleati in una testa di ponte profonda, solo 11 km e larga 24. Invece di puntare subito all'interno, il generale Lucas piazza i suoi uomini sulle spiagge. Non tenta neppure una ricognizione in forze. I tedeschi, colti completamente di sorpresa, reagiscono con estremo vigore. Mettono in piedi la 14ª armata al comando di Hans Georg von Mackensen. I nazisti riescono a contenere le forze di Lucas. Il 3 febbraio 1944 i tedeschi sferrano un primo contrattacco, poi altri in tutto il mese. Il 15 febbraio 1944 gli alleati bombardano l'abbazia di Monte Cassino e il giorno dopo von Mackensen muove le sue truppe fino a quasi ricacciare le forze alleate in mare. Il 23 febbraio del 44 Lucas viene rimpiazzato dal generale Truscott, ma ormai la situazione operativa è compromessa e non più risolvibile in breve tempo. Fino a maggio del 44 le forze contrapposte in stallo si fronteggiano senza incidere sul quadro strategico. Per sbloccare la situazione gli alleati dovranno conquistare Cassino e aprirsi la strada verso la liberazione di Roma un mese dopo. Dello sbarco di Anzio e Nettuno resta però la memoria dei testimoni. La loro voce è stata raccolta in un documento prodotto dalla città di Nettuno, per mai dimenticare. Che sono stato uno dei primi a vedere gli americani, io, nella mia zona, diciamo, perché passavo presto, era d'inverno, chissà stava alle 6. Io però dovevo andare a prendere sto latte, era ancora buio. E quando una mattina del 22, la notte sentimmo un po' dei bombardamenti, ma erano come mine che scoppiavano, botti. Prima pensavamo che fosse in temporale, però guardammo, c'erano le stelle, ho detto, ma allora qua che cos'è? E si vedono lampeggiare verso, diciamo, il poligono da quelle parti. Allora pensavamo che stavano a scoppiare qualche cosa, i tedeschi. Non pensiamo mai allo sbarco. Gli americani hanno sbarcato da Dorastura, no? Scendendo giù tutto il poligono, fino alla costa, qui a Nettuno, dentro Nettuno. Poi il porto ha ricevuto le navi che potevano entrare, quelle più, perché era un porticciolo, anzi non era un gran porto. Invece dalla parte di là, dopo Anzio, no? Lì c'erano gli inglesi, i canadesi, i neozelandesi, tutte le truppe che stavano con gli inglesi. Gli americani hanno sbarcato al Bosco di Foglino. Noi stavamo alle Grugnole. Gli americani hanno fatto tra il poligono, tra Sarocco di Nettuno, tra la chiesa di Sarocco, la spiaggia di Sarocco, fino a Torastura, però proprio il centro dello sbarco è stato proprio Foglino, che loro scesi da Foglino dentro al poligono, hanno attraversato la strada e sono passati proprio davanti alle capanne nostre perché era la strada che portava a Tre Cancelli. Ha sbarcato qua al poligono al poligono e tra il poligono e Torrestura. E Torrestura hanno sbarcato la quinta armata americana. Invece l'ottava armata inglese è sbarcata a Anzio, facendo dall'altra parte. Ho capito. Dall'altra parte, qua erano tutti americani. Uno ci ha detto, portatemi con voi. Si è fermato, ha detto, dove stanno i tedeschi? Ha detto, i tedeschi stanno verso Vittoria, di là. E sono andati, no. Mi ha detto, ok, come on. Mi ha dato due scatole di munizioni e mi sono messo un colonnato pure io. E mi sono detto a mio cugino Rolando, va a casa, dici a mamma che sono andato in guerra io. Che ci dovevi? E siamo partiti. E siamo andati verso il poligono. Verso il poligono, poi siamo arrivati dietro l'acciarella, no? Dietro l'acciarella c'era un bosco che si chiama, è la macchia di Sant'Antonio, era quella.